Elia Media. Hanno il tono attivato. Molti media c'hanno. Radio Aelia Media, tutti i giorni dal 15 ottobre dalle 16 alle 20 in Piazza Pontoni. Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui in Piazza Pontoni in live con Radio Aelia Media, www.aeliamedia.org. Siamo, ricordo ai passanti, gli ascoltatori, che siamo in streaming sul sito www.aeliamedia.org e sul canale Ustream, e siamo pure in diretta da Radio Kairos 105.85. Io sono sempre Cinzia Pietribiasi. Sono nella mia seconda fase, nella mia seconda parte di trasmissione. La prima parte era attorno al progetto di Arte e Salute, Follemente, cronaca di un teatro possibile, dove ho avuto l'onore di avere con me qui stasera tre protagonisti del progetto: Gabriele Tesauri, Maurizio e Indira, due allievi attori del progetto di teatro e psichiatria. E invece adesso siamo in una fase un po' più ludica, un po' più giocosa, diciamo così. Sono le 7:30, sono le 19:38 per la precisione. Qui in Piazza Pontoni, con questo freddo e questo gelo, urla il vento e fischia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare. È molto difficile stasera, quindi qua bisogna tirar su un po' il morale, bisogna tirar su il morale a questa Italia, vero dottor Pezzoli? Sì, vero, tiriamo su proprio solo il morale, tiriamo su. Certo, perché altrimenti cosa vogliamo tirare su? Non si potrebbe dire, perché si cade nella sconcezza. Sì, hai ragione. Molto. Ha ragione, mi scusi, le do del voi o del lei? Può darmi anche del coloro. Bene, dottor Pezzoli, poi lei è l'ospite di eccellenza di questa sera. Sì, direi un ospite di molta eccellenza. Molta eccellenza. Infatti voglio del coloro per quello, perché sono molto importante. Quindi loro, allora, loro dottor Pezzoli? No, coloro. Coloro dottor Pezzoli. Io disegno, sì. Oltre al dottor Pezzoli, che è l'ospite d'eccellenza, ovvio, abbiamo anche due piccoli ospiti, che sono Grazia. Ciao, mini ospite. Mini ospite. Mini ospite 1. E il mini ospite 2? Mini ospite 2, Lorenzo. Lorenzo. Ciao a tutti. Ciao. Passiamo subito al dunque. Passiamo al dunque. Dottor Pezzoli, io in realtà l'ho chiamata qui stasera perché lei deve illuminare Piazza Pontoni, anche se è buio. Lei deve illuminare Piazza con Pontoni. Con la sua energia, no? Con l'energia, ma soprattutto con l'eloquenza. Con l'eloquenza, dottor Pezzoli. Le sappiamo che lei è di un eloquente. Chi è più eloquente di me? Ha ragione. Quindi, dicevo, dobbiamo illuminare Piazza Pontoni e il cuore e le menti degli italiani attorno alla lingua italiana. Esatto. Che notoriamente è poco conosciuta, vero, dottor Pezzoli? La lingua italiana è poco conosciuta, sempre meno gente legge il vocabolario, più che altro perché magari molti non sanno che le parole sono in ordine alfabetico. Quindi, dottor Pezzoli, mi dica. Cerchiamo di spiegare ai passanti e ai nostri ascoltatori di Radio Aelia Media cosa significa questa parola molto difficile. Frottatoio. Frottatoio è un termine che veniva usato nei tempi antichi quando si prendevano le olive, si schiacciavano e nasceva l'olio extravergine d'oliva. Susseguendo varie generazioni ha cambiato termine e quindi adesso viene definito frantoio. Però il termine in cui nacque è quello detto da lei poc'anzi. Quindi il termine arcaico è frottatoio. Frottatoio. Frottatoio. Sì. Che c'era anche molta frotta di ottenere dell'olio extravergine. Sì, perché c'era un movimento molto più... Di frottole. Quelle sono altre bugie che ci hanno voluto far credere. Era più fruttuoso. Era più fruttuoso, ecco. E anche un po' fruttato, anche un po' fruttato, diciamo. Una volta, sì, adesso, visto che ci sono olive OGM... Di cosa sa? Sa di OGM. Benissimo. Quindi i passanti e gli ascoltatori di Radio Aelia Media adesso hanno capito cosa significa questo termine veramente molto astruso, ma passiamo ad un altro, dottor Pezzoli, perché sappiamo che lei veramente ci può aiutare, può aiutarci, ci può far diventare tutti molto, ma molto più intelligenti. Sì, sì, è meglio inculturare molta gente. Allora, spieghi con parole semplici, ma anche in modo preciso, scientifico, cosa cosa significa la parola Magredo. Magredo è un popolo antico nato in Macedonia. Questo popolo nato in Macedonia era molto conosciuto perché gli piaceva molto viaggiare e quindi di conseguenza viene definito anche un popolo, diciamo, magrebino. Ricordiamo, non ha nulla a che fare con la parola magodia, che tutti sapranno cosa significa, vero dottor Pezzoli? Sì, magodia era un prestigiatore che svela i propri trucchi. Infatti si dice magodia, dia, nel senso che fa vedere cosa sia, dia. Dia, mago, dia. Mago, dia. Mago, dia. Ma i nostri opinionisti questa sera, è interessante fare il lavoro di opinionista, vero Lorenzo? Sì, è interessantissimo, assolutamente. Allora, ci dia un'opinione sul dottor Pezzoli. Che sia aspettabilissima persona e... Un gentiluomo. Assolutamente, sì. E uno scienziato della lingua italiana. Un uomo di cultura, assolutamente. Un uomo di cultura. L'altro opinionista che abbiamo qui nel nostro chiosco di Radio Elia Media questa sera, grazie. Cosa ne pensa del dottor Pezzoli e dell'insegnamento che può dare alla lingua italiana e a tutti noi? Interessante. Io infatti glielo dico spesso che è interessante. Lui mi dice poverina perché capisce la mia... Insomma, il mio grado molto inferiore, sì, il mio limite dinanzi alla sua cultura, io gli dico interessante, non si può dire altro. Esatto, di me non si può dire altro che interessante. Facciamo in modo allora di dimostrare la sua superiorità, dottor Pezzoli. Allora spieghi in modo scientifico e preciso cosa significa paterazzo. Paterazzo è uno stato d'animo, è uno stato d'animo molto preoccupante nelle persone che lo vivono e quindi molto spesso queste persone usano molti farmaci appunto per questo termine che ha appena detto lei, che non sto a ripetere perché è un termine che fa molta paura nelle persone. Paterazzo ovviamente non ha a che fare con una... famosissima patologia che è la pomologia. No, la pomologia è un'altra patologia che induce la gente a mangiare mele. Eccoci tornati in Piazza Puntoni in live con Radio Elia Media, www.eliamedia.org. Ricordiamo che siamo in streaming su www.eliamedia.org e sul canale Ustream, e siamo pure in diretta con Radio Kairos 105.85. Siamo qui con il dottor Pezzoli, l'illustre, insigne dottor Pezzoli. La nostra trasmissione è Super Califragilistico e Spiralidoso, e adesso chiederò ai miei ospiti opinionisti di farmi il jingle. Super Califragilistico e Spiralidoso, yeah. Anche se ti sembra avere un suono spaventoso, yeah. Se lo dici forte sembra un son meraviglioso. Super Califragilistico e Spiralidoso. Binghe bode bom de bom, binghe bode bom de bom, binghe bode bom de bom. Quindi torniamo dal dottor Pezzoli, che è qui tremante, perché voi dovete sapere che qui fanno meno 30 gradi, vero dottor sì, Pezzoli? Meno 30. Meno 30, siamo a temperature russe. Ora 31. Russa lei, sì. Dottor Pezzoli? Io russo di notte, russo così forte che mi sveglio nel sonno. Ma solo? Dottor Pezzoli, sì, perché la calca, russando, la calca qui fuori ci vuole chiedere qualcosa. Sento che ci vogliono chiedere... Cosa significa ricinio? Dottor Pezzoli, è molto importante rispondere. Ircinio è una tipica persona dal carattere molto astruso, arcigno. È detto spesso così dai romani, arcigno. Che è diverso da pacere. Pacere è più che altro è un termine molto simile. Noi intendiamo pacere come persona che tende a mettere la pace, invece esattamente al contrario, pacere è colui che non esegue la pace, anzi, crea zizzanie. Concedetemi questo termine che forse è bolognese. Ma sarei anche curiosa di capire i nostri ospiti opinionisti. Cosa ne pensano di questo termine che spesso è nella bocca delle persone? E che è gira maschi. Gira gira e poi rigira che lo trovi un maschio, dico, forse, anche no. Lorenzo, opinionista Lorenzo, perché secondo lei è così di moda gira maschi? Gira maschi ha rivoluzionato la micromeccanica delle automobili, no? Perché è un attrezzo molto funzionale, versatile, il gira maschi, fa svitare i bulloni e le viti in un attimo, veramente. È molto utile, sì, è un ritrovato della tecnica, e dobbiamo ringraziare dottor Pezzoli, perché in realtà è stato proprio il nostro dottor Pezzoli a inventare il giromaschi. Esatto, ho telefonato a un rabdomante, gli ho spiegato la situazione, in quanto la mia nuova moglie non riusciva a soddisfarla completamente e aveva bisogno di altri maschi. Giustamente, il dottor Pezzoli è un po' ermetico, però è il suo ruolo, che è il ruolo del dottor Pezzoli, come ogni insigne scienziato, è di essere ermetico, di non farsi capire. Ma non abbiate paura, non abbiate paura, e abbiate fiducia nel dottor Pezzoli, che risolverà tutti i problemi, sì, compresi i problemi dei giromaschi. Sì, sono lunga Garetti della scienza, ermetico. Assolutamente. E allora spieghiamo un altro termine che normalmente si trova nei giornali. Quando noi sfogliamo un quotidiano, noi troviamo spesso un termine che è fotiniano. Questo termine in realtà lo conosciamo tutti. Chi non conosce il termine fotiniamo, del resto? Allora, dottor Pezzoli, sfatiamo un altro mito. È l'angolo della posta, dove tutti scrivono anche le domande più assurde e loro ti rispondono con una risposta assurda, quindi alla fine è un angolo inutile. È un angolo in più dove è possibile allegare una piccola fotina. Adesso sì, adesso è possibile, perché con la tecnologia riusciamo a fare tutto. Si può allegare una poesia, il lettore, che diventa scrittore di questo angolo della poesia perché fa domande, può legare la propria fotografia. Quando allegano le fotografie, non tutte le foto sono carine, e infatti vengono prese in considerazione solo le foto di belle ragazze. Appunto, sono solo le belle ragazze a essere soddisfatte con la loro risposta. Dottor Pezzoli, lei è fantastico. Me lo dicono tutti. Lo sappiamo che lei ha orde di donne accanto e dietro e davanti. Finché sono donne, speriamo che non trovare delle sorprese. Sentiamo che fuori addirittura adesso abbiamo avuto un attimo di tremore, il chiosco è assaltato dalla gente, da donne che vogliono tutte il dottor Pezzoli perché è talmente un uomo di successo. Il dottor Pezzoli è l'uomo in carriera, il dottor Pezzoli è lo scienziato pazzo. È l'uomo che non si guarda mai indietro, direi, non ha bisogno. Ogni tanto mi guardo indietro. Lasciamo i nostri spettatori, i nostri ascoltatori con l'ultima definizione del dottor Pezzoli, la definizione che rimarrà nei cuori delle persone, la definizione che vi ricorderete per tutta la vita, una definizione importante, importante per i sentimenti, importante per il cuore, per la mente e per gli occhi. Spieghiamo, dottor Pezzoli, spieghiamo alla gente che ci ascolta cosa significa chitinoso. Chitinoso è un animale a due teste. Un animale più che altro è un animale mitologico, non un animale esistente. Questo animale a due teste venne usato nell'antichità per spiegare il mito del Minotauro. In effetti il Minotauro non è mai esistito, era nella fantasia dello scrittore. Esisteva invece questo animale che addirittura si trovava non dentro un labirinto come tutti credono che fosse un labirinto, ma si trovava in una stanzina senza luce, in una stanza tonda. Buio. Buia, completamente buia. E solo e triste. E forse per quello che pensavano fosse un animale con la testa di toro. In realtà era un animale a due teste. Quindi sappiate, ascoltatori, passanti di Piazza Puntoni, che in questo chiosco questa sera avete assistito a un evento importantissimo, un evento memorabile, un evento unico nella vostra vita, unico nel panorama internazionale della cultura, dell'arte, della letteratura, della poesia. Signori e signori, salutiamo il dottor Pezzoli con la sua verve, la sua maestria nel spiegarci la nostra vita quotidiana e la nostra lingua italiana. Salutiamo anche i nostri due ospiti opinionisti. Arrivederci, alla prossima. E salutiamo tutti con il jingle supercalifragilisticoespiralidoso. E grazie di averci ascoltato qui da Piazza Puntoni in live con Radio Elia Media, www.aeliamedia.org. Ricordiamo che siamo in streaming e che ormai lo streaming è finito. Ci rivediamo domani e ci risentiamo domani alle 4, alle 16, dalle 16 alle 20 di nuovo in Piazza Puntoni. Ed ecco a voi il jingle supercalifragilisticoespiralidoso. Ciao Piazza Puntoni. Supercalifragilisticoespiralidoso. Anche se ti sembra avere un suono spaventoso, se lo dici forte sembra un suono meraviglioso. Supercalifragilisticoespiralidoso. Elia Media. Hanno il tono attivato. Molto media. Dal 15 di ottobre, dalle 16 alle 20 in Piazza Puntoni. www.aeliamedia.org.